Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Anche in queste giornate a cavallo fra Natale e Capodanno abbiamo deciso di tenervi compagnia parlando dei temi più cari a Salva Danaio, cioè la cura della finanza personale e familiare. Ne parliamo oggi e domani, oggi focalizzandoci sulle tematiche del risparmio, domani sul tema dei consumi. Non che siano due aree separate, anzi, però abbiamo voluto in ogni caso operare due analisi distinte. Oggi dunque il risparmio, abbiamo voluto dare un taglio speciale alla nostra trasmissione. Come? Intanto abbiamo sentito come gestiscono il proprio risparmio i nomi più noti del nostro palinsesto. Mi sono fatta gli affari dei colleghi conduttori di Radio 24 e delle loro esperienze, e le loro esperienze saranno oggetto delle considerazioni che faremo con un amico di Salva Danaio, Marco Liera, che saluto e ringrazio di essere ritornato a trovarci. Marco, benvenuto. Ciao Deborah, buongiorno a tutti. Marco ha appena consegnato alle librerie la sua ultima fatica editoriale, si chiama La finanza personale, le 10 decisioni chiave per pianificare le finanze di famiglia senza contare sull'aiuto dello Stato. Ti conoscono tutti i nostri ascoltatori, Marco, però per chi non avesse mai avuto modo di sentire una nostra trasmissione che ti avesse avuto come ospite, ricordo che Marco è stato fondatore e responsabile di Plus 24 del Sole 24 Ore fino a qualche mese fa, è autore di molti libri di successo, fra cui Capire la Borsa, e anche docente universitario alla Facoltà di Economia all'Università di Parma. Noi, Marco, leggeremo oggi qualche passaggio del tuo libro e poi, prendendo spunto da quello che hai scritto, daremo anche qualche lezione per far capire ai nostri ascoltatori come prendersi cura delle proprie finanze e per far capire che prendersi cura delle finanze personali non è come andare in guerra, perché per qualcuno a volte è un tema veramente molto difficile da gestire, è invece un percorso molto costruttivo e soprattutto quanto mai utile per pianificare al meglio il proprio futuro, un ambito che, come sapete bene, è sempre pieno di incognite. Marco, prima di sentire i pezzi appunto tratti dal tuo volume e le testimonianze dei nostri amici conduttori di Radio 24, ci fai il biglietto da visita del tuo Finanza Personale? Sì, Finanza Personale è un libro che vuole spiegare agli investitori grandi e piccoli, ai consumatori, che è importante dedicare del tempo alla cura dei propri risparmi, dei conti di famiglia. Questo è ancora più importante adesso, anche se è sempre stato fondamentale, perché siamo in una fase di ritirata dello Stato. Questo non accade solo in Italia, ma anche in altri paesi occidentali, ritirata dello Stato da una serie di interventi a favore delle famiglie, quindi pensioni che si riducono, spesa sanitaria in contrazione, scuola che non è più gratis come un tempo. Quindi un sacco di diverse agevolazioni e aiuti che in passato potevano appunto venire incontro alle esigenze delle famiglie, ora invece non ci sono più o ci sono in misura minore, e quindi le famiglie, gli investitori, i risparmiatori devono pensare individualmente o collettivamente, comunque su una base privata, su una base autonoma, a come soddisfare questi bisogni finanziari: pensione, casa, scuola dei figli, sanità, istruzione e così via. Io prima ho ricordato che tu sei stato fondatore responsabile di Plus 24 del Sole 24 Ore fino a qualche mese fa, ora il posto di Antonio Quaglio, che salutiamo, ma conservi ancora per l'inserto del sabato dedicato al risparmio e agli investimenti del Sole 24 Ore la rubrica La Posta del Risparmiatore. E peraltro noi possiamo anche ricordare che tu hai un indirizzo a cui gli ascoltatori di Salva Danaio, se lo vorranno, potranno scriverti: liera.marco@gmail.com, specificando nell'oggetto finanza personale. Tutto questo per arrivare a chiederti che cosa ti chiedono le persone che ti scrivono. È davvero un oggetto così misterioso la cura della finanza personale? Ma io a Plus 24 curo ancora, come tu hai ricordato, la rubrica delle lettere, che è la rubrica che mi ha dato negli anni e continua a darmi grandi soddisfazioni. È un laboratorio, lo chiamo un laboratorio di reality finance. No, in televisione abbiamo i reality show. Certo. Ecco, qui sarebbe molto utile al crearne sole. Uno. Magari lanciamo questa idea anche un po' stravagante, ma chissà che non venga in mente a qualcuno di fare qualcosa di utile. Sì, potrebbe essere interessante appunto prendere delle famiglie, chiedere loro come gestiscono i loro risparmi, come si rapportano con il denaro. Ecco, io cerco di farlo in piccolo, comunque in modo continuativo, su Plus 24, che da tanti anni appunto ha organizzato questo filo diretto con i lettori. Allora, i risparmiatori si rivolgono a me e al giornale soprattutto per questioni di investimento. Devo dire, negli anni ho assistito a una notevole crescita dei lettori, di quelli che ci scrivono, perché non è sempre più raro trovare dei lettori che dicono: ho comprato le Seat a 7 euro, adesso valgono poche decine di euro, cosa devo fare? Quindi lettori profondamente, come dire, smarriti di fronte alle grandi e alle pesantissime perdite che hanno subito sui mercati. No, ecco, ci sono sempre più risparmiatori e investitori che consegnano proprio il loro portafoglio personale con tanto di foglio Excel oppure fatto a mano su fogli a quadretti e chiedono: ma è adatto alle mie caratteristiche questo portafoglio? Questo è molto importante, far capire che non c'è una soluzione adatta a tutti, non c'è un investimento migliore degli altri, semplicemente ci sono degli strumenti finanziari che si adattano di più di altre alle esigenze specifiche dei vari risparmiatori delle varie famiglie. Questo è un salto culturale che ho molto apprezzato negli anni, che è stato fatto proprio dai nostri lettori. Questo peraltro, poi avremo modo di svilupparlo questo concetto se vorrei nella trasmissione, non significa che non ci si debba più affidare ai professionisti del risparmio, ma è il percorso che va fatto insieme, e questo appunto è un tema che affronteremo. Adesso sentiamo un primo stralcio tratto dal tuo libro Finanza Personale, le 10 decisioni chiave per pianificare le finanze di famiglia senza contare sull'aiuto dello Stato. Perché la pianificazione finanziaria? La pianificazione finanziaria è il processo che va dall'individuazione delle necessità finanziarie di una famiglia alla realizzazione delle loro soluzioni. Con una buona pianificazione dei propri investimenti, la famiglia diventa finanziariamente indipendente. È in grado, cioè, di soddisfare i propri bisogni finanziari senza l'aiuto di altri. La pianificazione finanziaria parte sempre dall'analisi di alcune informazioni rilevanti sulla famiglia: il capitale umano, l'età, la propensione al rischio, la composizione del nucleo familiare, il patrimonio disponibile, i flussi di entrate e uscite presenti e futuri, le coperture già disponibili su alcuni bisogni, per esempio quella pubblica per quanto riguarda la previdenza. Ovviamente occorre poi elencare i bisogni finanziari della famiglia in ordine di priorità: istruzione dei figli, acquisto della casa, pensione e così via. Solo mettendo insieme queste informazioni è possibile elaborare un vero piano finanziario composto da tre passaggi operativi strettamente correlati: la protezione del capitale umano, la ripartizione del patrimonio disponibile in un portafoglio di investimenti, asset allocation, un piano di investimento dei risparmi futuri. Il risultato? La realizzazione di questi tre passaggi permette di vivere più serenamente e di soddisfare le esigenze prefissate in ordine di priorità, compatibilmente con le risorse disponibili. Non è indispensabile che tutti questi passaggi vengano formalizzati, è un processo che può svilupparsi in modo del tutto spontaneo. Altre volte, invece, è necessaria l'assistenza di esperti. Comunque sia, quando risparmiano e conseguentemente investono, le famiglie hanno in mente dei bisogni da soddisfare. È qualcosa che però può avvenire più o meno consciamente e affiorare solamente su esplicita richiesta. Di conseguenza, i passaggi più elementari che le famiglie più accorte dovrebbero affrontare sono: a) acquisire piena consapevolezza dei propri bisogni finanziari prioritari e delle risorse presenti e future disponibili per raggiungerli; b) conoscere gli strumenti finanziari, dai titoli di Stato ai fondi pensione e ai fondi sanitari, dagli ETF ai fondi comuni e alle polizze vita, che permettono di soddisfare questi bisogni tenendo conto delle risorse disponibili; c) adottare un piano che, tramite l'utilizzo di questi strumenti, permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati; d) restare coerenti con il piano. Ed è proprio quest'ultimo, forse, uno dei comportamenti più difficili da mettere in atto. Le oscillazioni dei mercati, amplificate dai media, possono indurre nella tentazione di cambiare strada nel corso della realizzazione del piano, nella speranza di correggere gli effetti dei ribassi. Ma, lungi dall'ottenere i risultati sperati, il cambiare idea rischia di avere come unico effetto finale il mancato raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Insomma, Marco, un libro sulla piena assunzione di consapevolezza che mamma Stato, ce lo dicevi prima, non può più garantirci benessere e protezione eterni. È ora di capire, questo tu lo spieghi molto bene nel tuo libro, che dall'era del benessere insostenibile e iniquo si debba passare all'era delle responsabilità personali. Ma sì, perché nei decenni passati le famiglie italiane hanno potuto contare, ovviamente in misura diversa, ci sono state quelle particolarmente avvantaggiate dalla spesa pubblica e altre meno, ma diciamolo, Milioni di italiani devono dire grazie alla spesa pubblica e devono dire grazie al debito pubblico, perché non avrebbero potuto... Sì, poi in questi ultimi anni questo aspetto si è ulteriormente enfatizzato per i grandi interventi che lo Stato hanno fatto per proteggerci dalla crisi, ma questa è un'altra parentesi. Sì, perché poi adesso bisogna tirare i conti, i nodi vengono al pettine. Tanto li pagheremo noi, esatto. E le generazioni future, appunto... Ma per questo esiste, Deborah, il trasferimento intergenerazionale della ricchezza? Perché all'interno delle famiglie si hanno genitori che sono costretti a mantenere i figli per lungo tempo? Ma perché i genitori hanno beneficiato del debito pubblico e della spesa pubblica e ai figli viene chiesto di restituirla. Purtroppo questo non è un sistema iniquo, perché deresponsabilizza i giovani, perché comunque non è efficace dal punto di vista della crescita di un paese avere tanti giovani disoccupati. Però i conti dovevano essere fatti prima. Purtroppo sappiamo che la classe politica non è mai ispirata alla sostenibilità delle proprie decisioni, ma cerca di massimizzare il consenso elettorale nel breve termine, e questo accadeva anche 30, 40, 50 anni fa, quando sono state elaborate le norme che, per esempio, hanno costruito il sistema previdenziale pubblico. Allora, secondo i calcoli della Commissione Brambilla, il 90% del debito pubblico italiano si è creato a partire dal 1980 in poi con i disavanzi della spesa previdenziale. Questo è il principale buco nero dei conti pubblici. Di questo però, attenzione, parlare di buco nero sembra un concetto negativo, sembra che qualcuno si sia rubato qualcosa. No, attenzione, questi sono soldi che sono finiti regolarmente nelle tasche di milioni di pensionati italiani. Ovviamente stiamo parlando nella quasi totalità di pensionati che legittimamente stanno incassando le loro pensioni. Poi è chiaro, ci sono anche i fenomeni di frode, ci sono anche le pensioni invalidità date a chi sta benissimo e così via. Però il sistema era stato costruito proprio per dare delle pensioni totalmente sproporzionate rispetto ai contributi versati dai singoli. Ciò non toglie che, se noi guardiamo le pensioni che sono attualmente in erogazione, allora il 50% delle pensioni in erogazione dell'INPS sono di importo inferiore ai 1.000 euro. Questo non sembra non ci fa dire che abbondanza che stiamo generando. Il problema è che la platea dei destinatari è molto ampia oggi. La anche platea perché la è molto alta, e poi se noi facessimo il conto delle pensioni in erogazione, le confrontassimo con i contributi che le singole persone e le loro aziende hanno versato nei decenni passati, ecco, noi ci troveremo di fronte a uno spaventoso disavanzo. E questo dove lo troviamo? Lo troviamo nel debito pubblico. Secondo i calcoli di Alberto Brambilla, presidente del Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale, il 90% del debito pubblico italiano è stato prodotto dai disavanzi previdenziali evidenziatisi dal 1980 ad oggi. La spesa pensionistica e il debito pubblico che ne è conseguito è stata la fonte di benessere determinante per milioni di famiglie italiane, nel senso che queste famiglie hanno e stanno incassando da INPS e altri enti di previdenza molto di più di quanto hanno versato a suo tempo, ovviamente in modo del tutto legittimo. Eppure le pensioni sono mediamente povere. Un pensionato su due prende meno di 1.000 euro al mese e solo il 13,7% ne percepisce almeno 1.500. In più va sottolineato che dal 1992 le rendite pensionistiche sono rivalutate secondo l'aumento del costo della vita e non in base alla crescita delle retribuzioni dei lavoratori in attività. E sappiamo quanto l'inflazione percepita dai pensionati sia stata superiore a quella ufficiale dall'inizio dell'era dell'euro. Basta ricordare che questa misura da sola rappresenta 5 dei 7 punti percentuali di PIL che sono stati risparmiati alla voce previdenza nei 15 anni successivi alla riforma Amato. Se le pensioni attuali vi sembrano povere, chissà cosa penserete quando vedrete la vostra. Manca ancora una consapevolezza diffusa della scarsa copertura che verrà offerta dal primo pilastro tra 20, 30 o 40 anni. Non c'è ancora la famosa busta arancione, la comunicazione in uso in Svezia che informa i lavoratori della pensione di cui avranno diritto. A parte il 25% di contribuenti che dichiara zero redditi o giù di lì e che quindi graverà sulla collettività, il 50% dei contribuenti dichiara redditi tra i 15.000 e i 30.000 euro all'anno. Ciò significa che verseranno tra i 3 e i 6.000 euro l'anno di contributi, ipotizzati pari al 20% dell'imponibile, e quindi si troveranno con pensioni da fame, a meno di colpi di scena. In generale, poi, occorre tenere conto che qualsiasi proiezione delle prestazioni future si basa su ipotesi tutt'altro che solide, a partire dall'invarianza delle regole di pensionamento e di calcolo delle rendite per orizzonti superiori al decennio. Dal 1992 al 2010 si sono registrati ben 6 macrointerventi: riforma Amato nel 1992, riforma Dini nel 1995, revisione Prodi nel 97, riforma Maroni-Berlusconi nel 2004, revisione Damiano Prodi nel 2006, manovra d'estate 2010 e 22 microinterventi di manutenzione normativa. Questo per arrivare a dire appunto che il tema della consapevolezza individuale della finanza personale va preso come un obiettivo di vita prima possibile, in sostanza. Anche questo è un tema di cui parleremo. Adesso Marco ti faccio sentire invece quanto sono dediti al risparmio i conduttori di Radio 24. Ci hanno aiutato un po' a vivacizzare questa trasmissione un po' di amici. Sono Stefano Gallarini, Nicoletta Carbone, abbiamo sentito Matteo Caccia, Alessandro Milan, Gigi Garanzini. E allora la prima domanda che ho fatto loro intanto è se sono delle formiche o delle cicale e se accantonano una quota di risparmio in maniera costante facendo un po' di bilancio periodico di questa gestione. Sentiamo che cosa ci hanno detto, sperando che naturalmente i nostri amici che ci seguono da casa riconoscano le voci. Io devo dire che sono uno spendaccione in generale. Cerco di stare attento, ma non ce la faccio sempre. Cicalona. Spendacciona. Spendacciona. Perché subito questo, no? Questo termine così negativo? Generosa. Brava. Soprattutto con gli altri. Mi piace più spendere per gli altri che per me. Per la verità faccio un bilancio ogni tanto, cerco di accantonare, ma non sempre ci riesco. Cerco di mettere via qualche cosa, ecco. Hai chi ti aiuta a casa? Sì, vuoi sapere chi gestisce? Forse lo conosco anche. Ecco, io delego tutto a mio marito, però noi abbiamo i conti separati. Tendenzialmente sarei un risparmiatore. Mio padre è entrato in banca da cassiere a 20 anni ed è uscito direttore a 60. E quindi qualcosa mi ha trasmesso di formica. Io ci ho messo la componente cicala e quindi... Hai compensato? No, non metto via, no, non metto via. Non lo fai in modo costante? Non lo faccio, no, per niente in modo costante. No, sono un disastro, io non tengo un euro di conto, sei matta. Allora, magari qualcuno non ci ha voluto raccontare i fatti di casa propria, come è successo l'ultima voce che abbiamo sentito, che è stata quella di Alessandro Milan. Sentendo queste esperienze, Marco, così magari un po' riflettendo anche sulle testimonianze invece che ti rivolgono le persone che ti scrivono, che cosa ti viene in mente? Ci sono degli errori macroscopici fatti per chi dice non accantono niente, io magari non ci credo neanche, sono un disastro, non è possibile che la gestione della finanza personale avvenga con questa assoluta indifferenza. Ma c'è una cultura italiana tradizionalmente un po' avversa a questi temi. Mi piace ricordare che quando i politici di casa nostra vengono chiamati alla radio, in televisione, a parlare delle loro finanze, la prima cosa che dicono è: ah, io non ho mai messo nulla da parte, io ho solo debiti. Ecco, questo mi sembra che sia un po' un messaggio che cerchi un po' il consenso, che sia destinato a creare un po' di consenso. Come dire, sai, io non è che me la passi molto bene, quindi si crea subito un po' di empatia nei confronti di simpatia nei confronti di chi lo dice. La realtà è che non dovremmo neanche noi vergognarci di dire: no, guarda, io dedico del tempo alle mie finanze, io ho un conto corrente, lo guardo una volta al mese, due volte al trimestre, dedico 3-4 ore alla settimana ai miei investimenti, se questi ovviamente giustificano un simile impegno, parlo n volte all'anno con il mio consulente finanziario, con la mia banca di fiducia. Quindi ecco, questo insieme di attività nella scala dei valori tipicamente italiana. Noi in Italia abbiamo una grande fortuna, abbiamo una cultura letteraria profondamente classica alle spalle. Ecco, dovremmo affiancare a questa cultura che va mantenuta anche una cultura dei numeri, una cultura finanziaria, perché questo ci consente di affrontare meglio le sfide che siamo tutti chiamati ad affrontare in quest'epoca molto importante di contenimento dei debiti pubblici. Di un pochino di austerità generale, anche se forse non ce ne rendiamo conto, ma se ne renderanno conto, come prima Marco diceva, le generazioni future. Ci dobbiamo fermare solo per qualche minuto, un po' di pubblicità, poi ritorniamo con Marco Liera e il suo libro Finanza Personale, tra poco. Eccoci ritrovati insieme, ancora buona giornata da Deborah Rosciani. Questa è una puntata speciale di Salva Danaio che dedichiamo ad un tema che è abbastanza oggetto frequente delle nostre discussioni, il tema della gestione della finanza personale e familiare. Abbiamo invitato Marco Liera, che ha scritto Finanza personale, le 10 decisioni chiave per pianificare le finanze di famiglia senza contare sull'aiuto di Stato. Ve lo ricordo, Marco Liera, collega giornalista, è stato fondatore e a lungo responsabile di Plus 24 delle Sole 24 Ore, ha scritto molti libri di successo, è docente universitario, ma soprattutto ancora per Plus 24 continua a curare la posta del risparmiatore, dove arrivano tante testimonianze sulle modalità con cui le famiglie italiane si prendono cura dei propri risparmi, anche perché naturalmente un tema fondamentale è prendersene cura proprio per prendersi cura della propria famiglia e dei propri figli. Questo è un tema che peraltro affronteremo anche nel corso di questa trasmissione, perché se avete avuto modo di sentire la prima parte, abbiamo interpellato molti amici conduttori di Radio 24 e a loro ho anche chiesto come si stanno immaginando il futuro dei figli e come se ne stanno fin da ora prendendo cura. Marco, estraggo un'altra parte del tuo libro che affronta appunto queste decisioni chiave per pianificare le finanze di famiglia, decisioni chiave che hanno alcuni presupposti, sentiamoli. 1. Capire che la famiglia non è un'azienda, perché affetti, sogni, valori, stato di salute e purtroppo anche risentimenti prevalgono con elevata frequenza sulla razionalità economica. Ma capire anche che il benessere presente e futuro dipendono in gran parte dalle nostre decisioni. 2. Definire come si prendono le decisioni in famiglia, quindi la governance familiare. Su alcuni temi, quale carriera intraprendere, si può decidere da soli, mentre su altri, dove abitare, è ovvio un coinvolgimento più ampio. 3. Ricordare che le decisioni sono fortemente interdipendenti. Non si può pensare a un nuovo luogo di residenza o a comprare una casa più grande senza tenere conto della dimensione presente e attesa della prole, del futuro immaginato per i figli e così via. 4. Tenere conto delle conseguenze fiscali di ogni decisione. 5. Stimare sempre il livello di copertura pubblica e collettiva disponibile per le varie esigenze, pensioni del primo e secondo pilastro, assicurazioni aziendali e così via, prima di prendere una decisione, ma non fare mai affidamento solo su di esso. Marco, gli italiani rimangono comunque sempre dei grandi risparmiatori. O no? O è cambiato qualcosa? Nonostante la crisi, insomma, riescono ad accantonare una buona quota di reddito, anche se i redditi per molte famiglie sono cambiati per le perdite di molti posti di lavoro. E però meno male che è così. Io mi chiedo anche, quanto avrebbero risparmiato gli italiani se lo Stato non avesse accumulato questo enorme debito, però? Quanto avrebbero potuto risparmiare e accantonare gli italiani se avessero dovuto contribuire di più alla loro previdenza, pagare di più la spesa sanitaria in passato, pagare di più la scuola dei figli? Allora, la grande virtù degli italiani, che esiste, che è una virtù di capacità, che sta nella capacità di accumulare, beh, certo che ha fruito anche di una circostanza unica, probabilmente irripetibile, e cioè la grandissima compartecipazione dello Stato ai bisogni finanziari delle famiglie. È molto più facile risparmiare quando c'è tutta una serie di bisogni finanziari che vengono soddisfatti dallo Stato, no? Beh, allora è chiaro che è più facile risparmiare perché a queste spese pensa qualcun altro, ma negli ultimi anni abbiamo visto che queste spese pesano sempre di più sui bilanci familiari, ed è da qui probabilmente che si vede una delle ragioni della contrazione di questa propensione al risparmio, perché viene a mancare una delle ragioni storiche. In questo momento, a mio avviso, è molto importante ricordare quello che io metto alla fine del libro come messaggio conclusivo. Frugalità, frugalità, frugalità. Bisogna cercare di vivere al di sotto delle proprie possibilità e non al di sopra. Purtroppo siamo in una civiltà che incentiva molto il consumo, e magari un consumo anche a debito, che io penso che sia assolutamente legittimo indebitarsi, ecco. Preferisco che però le famiglie si indebitino per comprare casa, magari per comprare degli attivi che valgono, ecco. Mi preoccupo un po' di più quando vedo che ci sono famiglie che si indebitano per acquistare l'ultimo modello di TV LCD. Ecco, questo è più preoccupante, anche perché appunto c'è tutto un sistema che cerca di condurre le famiglie in questa direzione. Io, seguendo quello che hanno scoperto i principali studiosi di finanza comportamentale, Io non trascurerei alcuni diciamo dettami paternalistici nei confronti delle famiglie. Le famiglie possono essere aiutate anche incentivandole a prendere delle decisioni più sagge o meno insane. Per esempio, perché concedere, questa è una domanda che sicuramente non sarà molto corretta dal punto di vista così della comunicazione, non diventerò molto popolare facendomi questa domanda, ma perché consentire a famiglie che non hanno fatto nulla per accumulare un risparmio previdenziale, che poi lo facciano autonomamente con titoli di Stato, con azioni, non mi interessa, o che lo facciano piuttosto con fondi pensione, non importa, l'importante è che stiano risparmiando, ecco, per la pensione, ecco. Però siccome ci sono milioni di famiglie che non lo fanno, ma non poche di queste comprano il televisore a rate, ecco, io dico, beh, forse bisognerebbe porre dei limiti alla capacità di indebitamento delle famiglie quando queste famiglie non hanno fatto nulla per assicurarsi un futuro. È una bella provocazione questa, Marco, sicuramente ci piacerebbe approfondirla magari con qualche interlocutore che capace. Esiste in altri stati anche, cioè ci sono paesi, di questo ci tipo. Sono paesi come la Svizzera, per esempio, dove esistono dei limiti alla possibilità delle famiglie di indebitarsi. Un altro grande tema, Marco, poi tra l'altro non ho ricordato chi è che ha pubblicato il tuo libro, il Gruppo 24 Ore, dove lo troviamo peraltro, in libreria, in edicola? Sì, in libreria e nelle librerie e in tutti i siti online che vendono libri. Benissimo, un tema molto importante che attiene anche alla capacità, alla possibilità di gestire bene il proprio risparmio e le finanze personali, attiene anche a chi ci aiuta a fare questo percorso, perché molte famiglie italiane in passato, e questo capita spesso, incappano anche in una consulenza sbagliata, questo a volte le porta anche poi a intraprendere il percorso del fai da sé, del fai da te, e anche quella non sempre una strada giusta, a meno che non si dedichino, come dicevi tu prima, appunto molte ore a questa programmazione, a questa pianificazione. Allora sentiamo i conduttori di Radio 24 che cosa ci hanno risposto a questa domanda. Sei un risparmiatore fai da te o ti segue un consulente finanziario? Mio papà è consulente del lavoro ed è anche, quindi anche un po' commercialista, è quella roba a metà tra consulente del lavoro e commercialista, quindi fondamentalmente lui mi dice guarda che tra 3 mesi devi pagare l'IVA oppure devi pagare l'acconto, è l'unica tipo di consulenza che ho. Fai da te e da mia moglie, perché dopo qualche tramvatina che ovviamente nel corso di tanti anni ti prendi, insomma, poi anche lì fai un'altra media più o meno tra l'idea del momento e un po' di saggezza. Cos'è un consulente finanziario? Andiamo bene. Lo lascio a te, il consulente finanziario, non so chi sia. C'è un amico di mio padre che fa l'assicuratore che mi chiama in continuazione dicendomi se tu metti da parte 200 euro al mese per i prossimi 20 anni, tra 25 anni hai tot. E io gli dico, ma scusami, ma per 30.000 euro la mia vita non cambia. Così come non credo che cambi la vita di molte persone, voglio dire, considerando 80 anni di vita media di una persona. Preferisco tenermi 200 euro al mese. Quindi assicuratore respinto con perdite. Sì, sì. Avevo un consulente finanziario, ma da qualche tempo sono più un fai da me. Vorrei sapere chi nella sua vita non è mai stato un po' aggressivo e non ha pensato di aver avuto l'idea del secolo e non ha battuto i dentini, gli incisivi, dove fa più male. Credo che sia inevitabile, umano, però sempre, come dire, sempre calcolato il rischio da non esporti in maniera eccessiva. Mi ha colpito molto, Marco, forse anche a te, questo ragionamento che faceva il nostro Matteo Caccia sulla sua, lui tra l'altro è molto giovane perché è poco più che trentenne, sul ragionamento che fa insieme al suo consulente finanziario, quello che quantomeno tenta di appioppargli facendogli banalmente il ragionamento accantona 200 euro al mese che fra 20 anni ti ritrovi 30.000 euro e serviranno per la tua pensione. Certo che se gliela racconta in questa maniera non troverà mai una sponda recettiva dall'altra parte questo assicuratore, però forse questa è un po' la perplessità che hanno molti lavoratori che tengono ancora ben lontano il discorso della previdenza complementare. Sì, c'è la tendenza a porsi dei limiti. Allora, abbiamo sentito un nostro collega che diceva, ma tanto in fin dei conti la media dell'età a cui posso arrivare è 80 anni. Ma com'è la media? Ma chi l'ha detto? Ma noi siamo in un'epoca in cui per ogni anno, per ogni triennio che passa, la nostra speranza di vita si allunga di quasi un anno. Poi è chiaro che può capitare di tutto nella vita, intendiamo. E sappiamo che sì, in questo momento tra i nostri ascoltatori, in questo momento molti faranno i dovuti scongiuri. Ecco, ma c'è anche questo bellissimo rischio di vivere troppo a lungo che noi dobbiamo fronteggiare, il longevity risk. Ecco, questo viene costantemente sottostimato, ma non solo in Italia, eh. Questo accade in tutto il mondo. Noi veramente non abbiamo ancora acquisito la piena consapevolezza della durata della vita che può attendere molti di noi, ecco. Poi è chiaro, non tutti avranno questa fortuna, io continuo a pensare che è una fortuna, penso che su questo tutti saranno d'accordo, ma attenzione, è una fortuna sì quella di vivere molto a lungo, ma è anche una spesa che va in qualche modo fronteggiata. Allora, come va fronteggiata? Con la frugalità e la capacità di programmare le proprie finanze e rinunciare oggi per avere domani. Sarò retorico, i vecchi concetti che una volta magari si ricordavano nella giornata del risparmio. Ecco, poi io ho un'età che magari ho avuto la fortuna di celebrarla per bene ai miei tempi, la giornata del risparmio. Sarebbe anche interessante che appunto nelle scuole, ma ci sono dei programmi che appunto stanno cercando di introdurre una sana educazione finanziaria anche nelle scuole, ecco, è importante che l'istruzione, che il sistema scolastico faccia la sua parte, cioè che ricordi la validità del risparmio in un sistema che è diventato molto molto consumistico. Con questo non voglio, ecco, introdurre una mentalità, come dire, minimalista, no? Assolutamente, ricordiamo che anche i risparmi non sono altro che consumi futuri, quindi non vale mai la pena privarsi di qualche cosa che è necessario. Certo, oggi bisogna, come dire, anche vivere, poi la vita è una sola, si potrebbe anche aprire questa parentesi ed è tutta un'altra cosa, no? Un altro ragionamento che si potrebbe fare è che comunque qualche volta noi così siamo portati a considerare che dei cambiamenti importanti avvengano nell'arco di 100-150 anni. Abbiamo visto come questa crisi invece abbia modificato, come dire, ogni ragionamento temporale, perché ha cancellato 10-12 anni di borsa improvvisamente. Marco, ti devo solo chiedere di fermarti, adesso so che ti stavo incentivando a ragionare ulteriormente, ma magari lo facciamo nell'ultima parte di Salvadanaio. E abbiamo visto che questa crisi nel giro di 3 anni invece ha proprio completamente capovolto ogni convinzione economica. Ci fermiamo ancora, a tra pochissimo. Eccoci di nuovo insieme per l'ultima parte di questa puntata speciale di Salvadanaio insieme a Marco Liera, collega giornalista. Lo ricordo ancora Marco per la terza volta, per chi in questi mesi non t'avesse più sentito così di frequente come magari accadeva in passato a Salvadanaio, già responsabile di Plus 24 del Sole 24 Ore, fondatore dell'inserto appunto di risparmio nel mondo degli investimenti del Sole 24 Ore e autore di questo libro, Finanza personale, le 10 decisioni chiave per pianificare le finanze di famiglia senza contare sull'aiuto dello Stato. Quali sono queste decisioni? Le abbiamo tenute in caldo fino alla fine della trasmissione, adesso bisogna alzare anche il velo su queste 10 regole che poi fondamentalmente, va anche precisato, sono regole di gran buon senso, Marco. Allora, la prima decisione, il lavoro e l'impresa, in un'epoca in cui tra l'altro c'è una revisione del lavoro dipendente. Meglio avere un solo cliente, quindi stare dipendente o mettersi in proprio. A volte si corre di meno, si corrono meno rischi lavorando in proprio. Seconda decisione, la casa. Questa assolutamente serve, facilmente comprensibile. Terza decisione, la protezione del capitale umano, quindi i redditi futuri che vanno protetti con assicurazioni, infortuni e invalidità permanente. Quarta decisione, l'investimento del patrimonio attuale e dei risparmi futuri. Quinta decisione, la protezione della salute. Sesta decisione divisa in due parti. La prima, il benessere per quando non si vorrà, potrà più lavorare, quindi come costruire da oggi un'accumulazione che ci porta poi a una prestazione previdenziale. E sempre nell'ambito della sesta decisione, l'altro lato, quindi la copertura del bellissimo rischio di vivere troppo a lungo, ne abbiamo parlato prima. Cito solo un dato: quando Otto von Bismarck fece la prima riforma previdenziale della storia, diciamo era verso il 1878 se non ricordo male, la speranza di vita dei tedeschi era 35 anni perché c'era un'elevatissima mortalità infantile e l'età pensionabile studiata da Bismarck era 65 anni. Adesso sono passati 130 anni da quella riforma, l'età pensionabile è rimasta solo la stessa, ma nel frattempo la speranza di vita è passata a oltre 80 anni. Settima decisione, la residenza, dove stare. Non è qualche cosa che dobbiamo subire, la nostra residenza. Dobbiamo sempre chiederci, ma è meglio che io con la mia famiglia, per vari motivi, debba andare a stare da altre parti perché possiamo star meglio da altre parti? Ottava decisione, mantenimento e il futuro dei figli. Nona decisione, la gestione della disabilità. Le disabilità purtroppo avvengono nelle famiglie. Purtroppo sappiamo che ci sono famiglie, certo, dove i genitori invecchiano e magari non riescono più a essere autosufficienti. Sappiamo che ci sono famiglie dove invece ci sono dei bambini che nascono e che non sono come gli altri. Decima decisione, l'estate planning, la pianificazione patrimoniale. Quindi di chi sono i beni di famiglia? A chi andranno? Nel caso, c'è un capitolo bellissimo, matrimonio convivenza. Del trasferimento intergenerazionale, come regolare i rapporti, lei ha appena ricordato su Deborah, i rapporti economici tra i coniugi. Ecco, questi sono argomenti dei quali nelle famiglie si dovrebbe parlare in modo molto franco e aperto, anche periodicamente. L'avete ricordato prima, le famiglie non sono aziende, intendiamoci, però è importante che ci siano dei meccanismi e degli appuntamenti regolari in cui si parla anche di questo all'interno delle famiglie. Allora, questa trasmissione, come avete sentito nelle prime due parti, è arricchita anche delle testimonianze dei conduttori di Radio 24. Siamo andati un po' a curiosare all'interno delle loro abitudini, della loro gestione, delle loro finanze personali. La domanda che abbiamo fatto è stata anche questa: come stai pensando di organizzare il futuro dei tuoi figli? È un aspetto che ti preoccupa? È il tema peraltro dell'ottavo capitolo del libro di Marco Liera. Sentiamo che cosa ci hanno risposto Nicoletta Carbone, Alessandro Milan e Gigi Garanzini. Mi auguro che loro si preparino bene, stanno facendo l'università, che la facciano seriamente e poi che Dio la mandi buona, soprattutto che rimangano persone con una onestà intellettuale, che secondo me è quella di cui abbiamo bisogno oggi. Io da mamma credo che supportandoli in questa strada, e anche come naturalmente mio marito, possiamo avere fatto un buon lavoro. Poi in che senso? No, per il momento voglio dire la provvidenza. Sono un disastro. Alla mia età si parla soprattutto di nipoti e quindi sì, questo è un problema serio, questo è un problema che mi angoscia, perché non mi pare di vedere un'evoluzione della società civile, non solo dell'economia, con tutti i punti interrogativi che ha oggi. Però è una cosa che ho sempre pensato di fare il conticino, mettere, ma c'hanno 4 anni e 2 anni, metto un ciuccio da parte, un biberon. Questo è davvero un problema che mi angoscia, anche perché probabilmente non sono io a doverlo poi affrontare, ma lo devono affrontare creature che oggi mi sembrano, cioè sono ancora oggettivamente inadeguate a farlo. Per qualcuno è un problema ancora che si può rinviare, Marco, per qualcuno invece addirittura è un problema angosciante. Quanto costa però rinviare queste decisioni? Costa moltissimo in termini di bisogni finanziari futuri che non verranno soddisfatti, per arrivare a casi drammatici in cui io ho ricevuto lettere di, anche ne cito una nell'introduzione al libro, di persone che hanno perso il lavoro, che hanno davanti a sé ancora diversi anni per arrivare alla pensione e non riescono a mantenersi, perché poi quello che si vede è che purtroppo nel momento del bisogno si vengono a perdere anche delle relazioni che potrebbero essere di grande aiuto, e quindi c'è anche una solitudine da affrontare. Allora, questi eventi, io perché parlavo prima di protezione del capitale umano, anche i redditi futuri vanno protetti in qualche modo, ecco, almeno proteggiamoli dal lato degli eventi assicurabili. Ci sono degli eventi che sono assicurabili, come i gravi infortuni per esempio, almeno su questi facciamo qualcosa. E poi, per affrontare invece gli eventi non assicurabili, quali la disoccupazione, non c'è altro da fare che risparmiare, quindi ritorno al tormentone precedente, frugalità, frugalità, frugalità. Ecco Marco, è chiaro che la ricetta di base di ogni suggerimento di investimento, di accantonamento del risparmio, attiene anche alla situazione individuale, alla situazione della propria famiglia. Però si può avere, così anche da parte tua, un suggerimento generale su qual è il miglior approccio possibile per iniziare sin da subito il miglior investimento per il futuro dei figli? Beh, già accantonare anche poche decine di euro al mese va benissimo, poi dopo sullo strumento possiamo anche parlare quanto vogliamo, ma l'importante, mi viene in mente lo spot di una importante marchio sportivo, just do it, fallo, no? Comincia a risparmiare a partire da oggi per quell'obiettivo, fallo mese dopo mese con continuità, con l'addebito RID, molto importante. Ci sono dei meccanismi forzosi che sono fondamentali nell'economia domestica. Bisogna autocostringersi a fare delle cose. E come ricordavo prima, occorrerebbe anche un sistema normativo che impedisce alle famiglie di fare certe cose, di fare certi errori che purtroppo sono ricorrenti in finanza, come per esempio il fatto di indebitarsi senza avere la capacità di sostenere questo debito. Andiamo verso la chiusura della nostra trasmissione. Chiudiamo, tra virgolette, non dico in bellezza, ma un pochino sdrammatizzando. Abbiamo suggerito questa domanda ai nostri amici conduttori. Dovessi ricevere un'eredità improvvisa da uno zio paperone d'America, un'eredità anche piuttosto, oltre che a sorpresa, consistente. Che cosa ci fai? Senti un po'. Mi compro una casa. Ma continuerei a condurre la vita che conduco e investirei, mi comprerei una casa. Una casa in Costa Azzurra senza nemmeno pensarci un istante proprio, per clima, cultura, habitat, vicinanza alla terra mia, alle Alpi Marittime. Compro case e affitto. Una parte li devolverei in progetti di ricerca. Anzi, ho un amico che noleggia barche che mi dice il business non sono le case ma i posti barca, perché i posti barca hanno pochissime spese e gli affitti dei posti barca stanno salendo in maniera incredibile. Ne terrei una parte per me per fare il giro del mondo e le darei un po' naturalmente alle mie bambine, però li blinderei perché secondo me anche loro hanno preso la cicalaggine della mamma. Cospicua? Una bella eredità? Sì, ammettiamo che sia interessante. No, troppi, non mi piacerebbe l'eredità di zio Paperone, preferisco avere un lavoro e cercare di amministrarmi un po' meglio. E comincio a cercare un consulente finanziario, magari. Oh! Quante bugie anche qua, come per esempio chi ci racconta che no, io credo assolutamente che Nicoletta Carbone ne devolverebbe parte alla ricerca, qualcuno che vorrebbe girare ancora per il mondo, però insomma ancora la casa, Marco, e la ricerca di protezione, forse possiamo un po' individuare anche in questo il desiderio di comprarsi casa con una entrata improvvisa. Va benissimo la casa, è positivo il fatto che il 75% delle famiglie italiane sia proprietaria della casa di abitazione. Diverso è invece considerare l'immobile il migliore degli investimenti, perché purtroppo questa è la percezione, la certezza che hanno tanti italiani, più che altro perché penso che abbiano avuto delle delusioni dalle alternative di investimento, perché probabilmente chi ha spiegato loro le alternative di investimento, vedi fondi comuni, altri strumenti finanziari, non glieli ha spiegati molto bene. Diciamo che non ha costruito delle aspettative realistiche rispetto a questi investimenti. Mentre invece sulla casa, sapete, sugli investimenti immobiliari c'è questo grande vantaggio. Gli investimenti immobiliari non hanno un prezzo, cioè noi non sappiamo in tempo reale quanto vale un immobile. E io penso che la percezione di sicurezza che gli immobili hanno cambierebbe se su ogni palazzo ci fosse un display con il prezzo denaro da una parte e il prezzo lettera dall'altro, che in qualsiasi momento i compratori e i venditori sono disposti a presentare per quell'immobile. Allora scopriremo che anche i prezzi delle immobili oscillano, e bisogna ricordare che gli immobili hanno spese spesso impreviste e che molti non fanno i conti correttamente sul rendimento delle case. Perché? Perché magari hanno gli affitti in nero e perché non tengono conto di tutte le spese che le case comportano. Marco, grazie per essere stato con noi, per aver lanciato anche un discreto numero di provocazioni da questa trasmissione. Il capitolo a cui tieni di più di questo libro che hai scritto qual è? La protezione del capitale umano, perché il capitale umano è la grande ricchezza che tutti noi abbiamo. I nostri redditi futuri valgono molto di più dei nostri investimenti. Benissimo, grazie a Marco Liera per essere stato con noi in questa puntata speciale di Salvadanaio del 27 dicembre. Natale già passato, Marco, buon anno, ci risentiamo il prossimo anno per i tuoi consigli sul gestire al meglio la finanza personale. Grazie anche a voi Deborah e auguri a tutti. Vi ricordo ancora il titolo del libro, Finanza personale, le 10 decisioni chiave per pianificare le finanze di famiglia senza contare sull'aiuto dello Stato. Noi ci sentiamo domani. Buona giornata a tutti.